Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 11 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici tra la città e il carcere e rieccovi a Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma, ma non sono mai sola perché con me c'è Ignazio De Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi il saluto particolare a chi delle persone che si trova momentaneamente in prigione, in carcere, che sta preparando un esame. Perché è una cosa importantissima, dai ragazzi, qualcuno certe volte si perde un po' di coraggio, anche perché poi non c'è lo spazio non col professore, facile. Non è facile così, però è bellissimo prendere la laurea, imparare qualche cosa di nuovo, no? Mi pare che sia anche nel tema di questa trasmissione. Infatti, perché c'è una bella notizia che viene da una delle regioni insulari italiane, ed è la Sardegna, dove, leggo dal giornale L'Unione Sarda, articolo di Matteo Vercelli, Sardegna, corsi universitari in carcere, la regione modello per il paese. Perché? Perché nell'isola il 5,4% dei detenuti frequenta percorsi accademici contro una media nazionale dell'1,4%, quindi vuol dire che la Sardegna si dà parecchio da fare. Infatti il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, ha definito questo fenomeno fortemente significativo, tant'è vero che la regione può essere considerata capofila di una progettualità che sarà certamente seguita anche dalle altre regioni, dal resto d'Italia. Lui ricorda che l'impegno dell'università nelle carceri è fondamentale, la maggior parte dei ragazzi però non ha accesso a questa possibilità perché purtroppo dobbiamo ricordare che il dato dell'analfabetizzazione in Italia è in crescita, quindi non tutti riescono ad accedere agli studi universitari, un po' per questo fattore dell'alfabetizzazione, ma anche un po' per carenze economiche e difficoltà di accesso. Però ricorda, è importante che l'università ci aiuti a far crescere i nostri ragazzi nella cultura e nella stima di sé, perché cultura è anche autostima, è molto importante, molto connesso alla nostra personalità, perché tutti devono avere questa possibilità, anche quelli che sono finiti in carcere. Quindi un bel segnale di apertura verso tutti, verso anche chi si trova in questo momento sospeso tra fuori e il dentro, oppure solo dentro per chi non è agli arresti domiciliari, purtroppo. Ma siccome è importante studiare, è importante anche studiare storia, vero Ignazio? Esatto, e l'accompagniamo la notizia con questa campana che sentite nel sottofondo, ci potrebbe essere l'annuncio di un minaretto, ma questa è la campana, per dire che lo studio della storia fa parte delle cose importanti da studiare. Uno può dire, se studio marketing, studio ingegneria, studio elettronica e computer, benissimo, cose bellissime, ma guardate che la storia è la cosa che ci dà le basi, ci permette di avere delle radici. Pensiamo alla storia della nostra famiglia, papà e mamma ci raccontano, i nonni, il bisnonno faceva qui, uno ha la sensazione di sapere da dove viene e quindi non stupisce che un giornale come il Kuwait Times, kuwaitiano, riporta in questi giorni una notizia straordinaria del 17 gennaio del 2021, quindi pochissimi giorni, il ritrovamento di un enorme tesoro archeologico nel sito di Saqqara, che è vicino al Cairo in Egitto. Sono stati trovati dei sarcofagi, che sono le tombe dei faraone, che sono vecchie di 3.000 anni. E io posso testimoniare un po' questo dei musulmani, insomma, che ho vissuto tanto in paesi arabi. I faraoni non erano credenti né nel Dio dei cristiani, degli ebrei, né dei musulmani, quindi avevano le loro divinità. Per certi versi sono così considerate le divinità nocive o nemiche, ecco, di quello che è creduto l'unico Dio. E tuttavia, quando sono stato in Egitto, gli egiziani hanno una grande venerazione e un grande rispetto della loro storia. Quindi mi sembra veramente una finestra. Voglio aggiungere, per chiudere, solo una cosa che mi ha colpito, diciamo così, negativamente, di questa notizia. È stata trovata in una tomba un soldato con le armi. Ecco, mi verrebbe da dire, quando uno muore, basta, togliamogli almeno che è morto. Invece lì si usava che il grande soldato, il grande generale, veniva messo nella tomba con le armi. Sì. Però adesso devi raccontarci che brano lanciamo adesso, perché siamo già a metà della nostra prima parte. Allora, abbiamo Eshanta, vivi tu e io muoio dopo di te, in cui c'è la tecnica del Mawal, di Farid el-Atrash, questa capacità di fare i gorgheggi su una sola parola anche per minuti e minuti. È uno dei tesori della lingua araba e della musica araba. Quindi Ascoltiamo. siamo sempre in tema amoroso, anche qui. Sì, tutto, tutto, Bene. Farid Allora el-Atrash. è una settimana dedicata a questo. Ascoltiamolo. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختمت بعدك Su, sempre sulle note musicali di Farid al-Atrash, siete sempre sintonizzati su Liberi Dentro Eduradio e continuiamo il nostro flusso di notizie, questa volta molto belle, che ci giungono da un paese ugandese, a Peito Lim, dove c'è una connessione con l'Italia. Perché? Perché in fase di Covid, quella dello scorso anno, la prima fase di Covid, i detenuti del carcere di Reggio Emilia, con materiale donato dall'associazione Gens Nova, hanno prodotto delle mascherine, quando ancora nella prima fase del Covid non si trovavano, erano quasi introvabili e costosissime, tra l'altro. Quindi i detenuti hanno organizzato una vera e propria produzione artigianale di dispositivi di protezione e a questo loro appello, diciamo, per fare queste mascherine, hanno risposto aziende tessili e privati dandogli il materiale per produrle. E poi è stata messa a disposizione una macchina da cucire donata da una parrocchia del territorio. E pensate che per contraccambiare questo dono, paesi africani sono molto, contraccambiano sempre i doni, c'è cioè questa solidarietà, questa volontà sempre di contraccambiare anche in estrema povertà, che è veramente notevole. Hanno ricambiato donando un ritratto ad olio di un bambino sorridente che ringrazia per questo dono ricevuto. Ma adesso do la parola a te. Sì. Bellissimo, stupendo. Da parte mia, per il Galateo Arabo, oggi tocchiamo un punto molto importante con il articolo 46 della Costituzione tunisina, che riguarda i diritti della donna, in cui noi possiamo vedere come una Costituzione araba scritta da musulmani esprima delle cose più avanzate, per esempio, della Costituzione italiana. Guardate, sentite cosa dice questo articolo: Taltasimu daula bi himayat al-huquq al-muktasaba lil-mar'a wa ta'malu ala da'miha wa tatwiriha, cioè lo Stato si impegna a difendere i diritti acquisiti della donna e per proteggerli e per svilupparli. E poi ancora un altro pezzo molto importante di questo articolo, Tatmunu ad-Dawla takafu al-furas bayna ar-rajul wal-mar'a fi tahammul mukhtalif al-mas'uliyat fi jami' al-majallat, cioè lo Stato assicura il takafu, la parità delle opportunità tra l'uomo e la donna per svolgere le differenti responsabilità in tutti i campi. Cioè ci sono una parità che riguarda le opportunità. E poi un punto ancora molto importante, l'ultimo comma di questo articolo 46, che andrebbero queste cose studiate a memoria, noi prima di tutto, sentite. Tattakhidu ad-dawla at-tadabir al-kafila bil-qada al-unf di dal-mara, cioè lo Stato prende le misure necessarie per eliminare il qada, eliminare la violenza contro la donna. Allora, noi questa cosa nella Costituzione italiana non ce l'abbiamo. Uno può dire, già, allora perché in Italia non c'è la violenza? Ma Caterina, tu me lo puoi confermare. Posso il femminicidio, la violenza sulle donne è diffusissima. Dovremmo metterla in Costituzione. Non ce l'abbiamo questa cosa. L'ha messa la Costituzione della Tunisia. E se l'ha messa, e vuol dire che evidentemente il problema c'è. Lo ricordiamo a tutti gli uomini che ci ascoltano, musulmani e non musulmani, arabi, romeni, moldavi, italiani, veneti, napoletani. L'uomo che fa violenza sulla donna, che viola con la violenza i suoi diritti, disonora prima di tutto se stesso. E poi fa un reato per il quale deve rispondere davanti alla legge, ma innanzitutto infanga se stesso. Guarda, mi dai proprio lo spunto per attaccare un brano musicale di Aretha Franklin, che significa, il brano musicale significa rispetto, il testo originale respect. Perfetto. Ma la storia di questa canzone è che in realtà era stata composta nel 1965 da Otis Redding, dove il rispetto lui lo chiedeva per gli uomini. Lei stravolse il significato di questa canzone chiedendolo per le donne, e a un certo punto questa canzone famosissima, perché la conoscerete tutti adesso che l'ascolterete, dice: ti chiedo soltanto un po' di rispetto quando torni a casa, ma dove in realtà la richiesta di rispetto viene allargata all'intera società americana. Ascoltiamola. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siccome è giovedì, il nostro ospite fisso è sempre Marcello Mattè. Buongiorno. Buongiorno. E con te stiamo continuando il nostro percorso sul Vangelo, in questo caso il Vangelo di Marco, per domenica 14 di febbraio. Non abbiamo sempre il tempo di leggerlo tutto, ma vi segnalo i versetti. Siamo al capitolo primo di Marco, versetti 40-45. E siccome la scorsa volta abbiamo parlato della guarigione della suocera di Pietro, questa guarigione di questa suocera che tu hai detto è un po' un esempio per noi, un'immagine di sequela, oggi invece ci spostiamo sempre in Galilea, ma siamo in un episodio un po' diverso, dove si parla di una guarigione, anzi, di una purificazione, usando i termini corretti. Esattamente. E di un lebbroso. E ti chiedo allora perché è così significativa. La guarigione di un lebbroso, o meglio appunto la purificazione di un lebbroso, è molto significativa perché il lebbroso ai tempi di Gesù era una specie di morto vivente, era civilmente morto, nel senso che non poteva contattare nessuno, non poteva andare nei luoghi pubblici, doveva starsene in disparte, doveva anzi suonare una campanella che avvertiva che stava passando perché si potessero tenere lontani. Ed era a maggior ragione impedito di andare al Tempio, quindi non poteva assolvere gli obblighi rituali, non poteva adempiere la legge, non poteva osservare la legge. E perciò questo lo rendeva già destinato comunque ad essere escluso dalla comunità dei giusti, dalla comunità di coloro che erano graditi a Dio. Perciò il lebbroso portava con sé non solo il dramma della malattia, ma anche questa esclusione sociale, esclusione dalla vita religiosa, esclusione dalla salvezza. Era un condannato in se stesso, che a meno che non fosse guarito, non avrebbe avuto rimedio per la sua vita. Quindi uno stigma veramente molto forte da portare, oltre mortale. Alla malattia stessa. Uno stigma mortale. E quindi allora, siccome abbiamo parlato di questi due lemmi, no? Guarigione e purificazione, lui a un certo punto, il lebbroso, grida chiedendo di essere purificato. Ci aspetteremmo guarito, perché lui chiede purificato. Diciamo che il lebbroso punta più su. Non gli basta essere guarito dalla malattia biologica, da quella malattia che colpisce il corpo, ma vuole essere purificato, cioè nel restituito alla possibilità di sperare nella sua salvezza, di poter sperare di essere reintegrato nella comunità del popolo di Dio, sperare di essere gradito a Dio, e l'accesso a Dio era garantito ai tempi di Gesù da alcuni riti che purificavano l'uomo e lo rendevano gradevole, gradito a Dio. Poteva accedere al Tempio, poteva accedere agli spazi sacri, poteva accedere ai tempi sacri. Quindi il lebbroso, chiedendo di essere purificato, chiede non solo di essere guarito dalla malattia del corpo, ma di essere anche sanato nello spirito, cioè di poter tornare a poter sperare di essere salvato, sperare di essere gradito a Dio. Adesso siamo quasi al lancio del nostro brano musicale e volevo chiederti come mai hai scelto questo brano e che cos'è? Ho scelto il brano Talk to Me di Peter Gabriel perché narra di questo desiderio, di questo invito a stabilire una relazione, tornare a parlare. Talk to Me vuol dire parlami. E tutto il testo della canzone è teso proprio a chiedere che vengano superate le barriere, che si superino i pregiudizi, si superino le difficoltà del passato per tornare a parlarsi. In realtà nasce come un invito di un padre rivolto alla figlia, ma porta con sé questo appello a superare gli ostacoli e tornare a parlarsi, a potersi contattare, a potersi rivedere e rincontrare. Talk to me, ascoltiamolo. Talk to me, just like it used to be. Come on, come talk to me. Come talk to me. In search of you. Bene, e rieccoci dopo aver ascoltato Peter Gabriel, Talk to Me. Ritorniamo al nostro Vangelo secondo Marco, vi ricordo siamo appunto al capitolo primo, versetti 40-45, leggendo sempre il brano, a un certo punto l'Evangelista riporta che Gesù, dopo aver purificato il lebbroso, lo ammonisce, cioè lo in qualche modo gli indica di non dire niente a nessuno, ma glielo dice in modo un po' perentorio, un po' severo. Un po' brusco. Perché? Perché? Questo brano qui è caratterizzato da questi tratti piuttosto forti, perentori, e tenendo conto che stiamo raccontando di un episodio che in sé porta una serie di trasgressioni a quella che era la legge, che doveva essere osservata. Il lebbroso che si avvicina a Gesù, ciò che non gli era consentito, era un'infrazione non solo della legge religiosa, ma anche della legge civile. E Gesù che lo purifica, questo episodio piuttosto tormentato, c'è anche questa toni coloriti che si mostrano esasperati, il lebbroso che grida, che invoca, che supplica, che si butta in ginocchio, una specie di drammatizzazione molto accentuata degli elementi di queste posture, di questi dialoghi, e Gesù che lo ammonisce severamente, cioè dopo averlo purificato, proprio lo caccia via in malo modo, lo ammonisce severamente, gli dice di non dire niente a nessuno. A me piace questa durezza di Gesù che usa verso il lebbroso, perché ci mostra che Gesù non vuole fare dei proseliti, non guarisce la gente perché gli vada dietro, perché gli batta le mani, ma anzi addirittura lo ammonisce severamente. È molto drastico, molto duro Gesù nel dire ti ho restituito la tua libertà, la tua vita, ma non voglio niente da te. E mi pare che questo sia molto significativo dell'agire di Dio con noi. Se ci fa grazia, ci fa grazia perché noi possiamo essere più vivi, più liberi, non perché gli dobbiamo qualche cosa, non perché diventiamo suoi servi, non perché gli andiamo dietro debitori della nostra vita, ma semplicemente perché questa vita ci è stata data come dono gratuito da lui. Quindi questa severità, questa durezza di Gesù, penso che esprima questa radicalità della generosità di Dio, che quando ci dà qualche cosa non ce lo dà per avere un grazie o per avere un contraccambio, ma ce lo dà semplicemente perché noi possiamo avere quella vita che lui ha donato a noi e possiamo averla in pienezza, possiamo averla in libertà. Grazie Marcello, e grazie anche perché prossimamente, spero, rileggeremo anche dei brani dove si accompagna questa severità, questa ruvidità di Gesù anche con dei tratti di estrema dolcezza. E anticipiamo un pochino il Vangelo della prossima settimana, che parla di questo tempio, questo tempo che si compie, e quindi se vuoi dirci qualcosa, sarà un Vangelo molto molto breve. È un Vangelo brevissimo che però è fondamentale, anche perché ci introduce nel tempo della Quaresima. Con questa domenica 14 febbraio termina il tempo ordinario, il mercoledì 17 sarà il mercoledì delle ceneri, e domenica 21 sarà la prima domenica di Quaresima, e ci viene riportato nell'episodio del Vangelo le tentazioni di Gesù nel deserto e poi l'inizio della sua predicazione, che con due pennellate Marco esprime in maniera formidabilmente concreta e formidabilmente solida. Grazie, ci rivediamo giovedì prossimo, e ora un brano lo lancio io, Tiki Bom Bom di Levante. Ciao, alla prossima! Saluti a tutti, buona domenica e buon giovedì. Ciao tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom. Mai tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa il filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più e meglio soli che accompagnati da anime senza sogni e pronte a portarti con sé, giù con sé. Tiki bom bom bom laggiù tra cani e porci, figli di un dio minore, pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No no no no no no no. Siamo luci di un'altra città, siamo il vento, non la bandiera, siamo noi. No, no, no, no, no, no, no. siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Ciao tu, freak della classe. Eccovi di nuovo qui, noi ci salutiamo anche questa volta, ci ridiamo appuntamento domani sempre alle 9 su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore, ma non dimenticatevi i nostri laboratori. Oggi, che è giovedì, per l'appunto vanno in onda alle 17 sempre sul canale 636 di Teletricolore, diritti al punto a cura degli studenti universitari del Poggeschi per il carcere. Scriveteci, mi raccomando, l'indirizzo postale è sempre quello, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure la nostra posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Ciao, a domani.